alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Claudio Bigagli legge Il deserto della Libia di Mario Tobino. Taccuino ritrovato nella cassetta militare del tenente Marcello. '92-1941. Circola la voce che gli inglesi sono già ad Agedavia. Ora gli italiani cominciano a svegliarsi, a imprecare, ma ancora non pensano, della quale funzione quasi sembrano destinati a essere incapaci. Da Bengasi, da Sirte, da Apollonia, da tutta la Cirenaica, che avevano automezzo e corso con il cuore in gola a Tripoli. Ora si vede cosa vuol dire non avere idee, essersi costruita una vita su falsi concetti. Donne e bambini girano per Tripoli senza casa, vengono di là. M'è parso di capire che ancora non credono alla realtà. I fuggiaschi sono ricoverati un po' dappertutto, specie nelle scuole. I più disfatti sono gli aviatori, che credevano di essere eroi, perché vi si erano vestiti. I generali vanno a dormire nelle campagne intorno a Tripoli per paura dei bombardamenti. Tutti pensano a loro stessi. Il più grande egoismo abbaglia. Non siamo neppure cristiani. Gli unici calmi e vagamente tristi sono coloro che tutto questo risultato avevano previsto logicamente. Costoro sono pochi e saranno colpiti come gli altri. I nemici, cosiddetti, non possono distinguere. I fascisti cercano di fuggire a più non posso verso l'Italia, e in massima parte l'hanno già fatto. Qui sono rimasti gli italiani imbecilli e in certo modo innocenti, e gli italiani dignitosi che, nonostante già avendo capito la situazione malsana, anche nella falsa vittoria, sono tuttavia rimasti, non fuggendo, a causa della dignità. Senza data, le autoambulanze che venivano dalla Cirenaica dopo l'abbandono erano tempestate di croci rosse, di bandiere internazionali della sanità. Sopra il tetto, altra enorme croce rossa. Erano guidate da un uomo bruno, con dentro gente sanissima che aveva paura. Arrivavano a Tripoli a tutte le ore, in quei 3 giorni di arrivi dei fuggitivi. E le bandiere di autoambulanza, quegli occhi e i volti che si vedevano dentro, quei cassoni polverosi e sberciati, raccontavano la storia di 20 anni. Quella gente, dopo che era scesa sul suolo sicuro di Tripoli, non smetteva di aver paura e pensava ad altri piani di fuga. Il negro ormai si era liberato e urlava in loro senza ritegno. Le labbra tremanti, quei gesti da commediante filodrammatico, quelle voci che raccontavano descrizioni inesistenti. Sempre si udiva la parola «scappare». Poi, quando cominciarono a sbarcare i tedeschi, tutti i negri tornarono immediatamente eroi. Pochi secondi dopo l'arrivo dei tedeschi, si dimenticarono immediatamente della fuga, ma nei sogni ogni notte riappariva. Arrivavano gli eroi, le bandiere, i fumi, gli schiamazzi. Avevano sulle gambe, nel sedere, 1200 chilometri. Io ero a Tripoli, all'ultima tappa. Appena arrivati, domandavano la strada della Tunisia. La fuga è una voluttà, volevano continuarla. Sembrava volessero fuggire tutta la vita. E moltissimi arrivavano all'ospedale. Io ero appunto medico della Busetta, dell'ospedale militare di Tripoli. Vidi autoambulanze stipate di aviatori, che vi raccontarono erano fuggiti dalla Cirenaica verso Tripoli in autoambulanza, e cioè via terra, e non sugli aeroplani, che ancora ve n'erano, perché volare era pericoloso. La caccia inglese era più veloce, li avrebbe potuti raggiungere e uccidere, mentre invece fuggire sulle autoambulanze con le croci rosse dipinte era più sicuro. E così arrivarono i pochi altri, perché il cosiddetto fugone lo fecero in pochi. Si videro soldati feriti alla testa, perché la testa l'avevano battuta fogosamente montando sul camion che fuggiva. Infatti, per fuggire c'era il combattimento per il posto sul camion. E poi, una volta saliti, via per centinaia e centinaia di chilometri. E arrivati a Tripoli, non si volevano fermare. C'era da credere che le nebbie fossero spazzate una volta per sempre, passata quella paura. Ora avrebbero cominciato a vedere con occhi mondi la realtà. E la loro realtà. Invece non fu così. Intanto dunque arrivarono a Tripoli tutti coloro, pochi, che erano riusciti a sfuggire all'accerchiamento. pochi perché i più furono regolarmente accerchiati e i diversi non tentarono nulla per sfuggire all'accerchiamento inglese, poiché erano lieti di divenire prigionieri e finalmente smetterla col deserto, del quale erano stanchissimi. E poiché ugualmente erano stanchissimi di quella confusione che non capivano bene quale e perché ci fosse, ma che pure sentivano esistente. Quei pochi mostrarono le loro facce stravolte a Tripoli, e a vederli c'era da ridere, non su di loro persone, ma per quello che essi rappresentavano, perché erano gli stessi delle grandi adunate, delle divise fiammanti, degli esaltanti discorsi, delle impettite, austere prepotenze, erano i burocratici, coloro che credevano la vittoria essere una circolare, un manifesto osannante, e arrivarono a Tripoli con la testa rotta, dentro e fuori. Erano tutti coloro che non avevano pensato, che s'erano fatti tirar su con l'amo, agganciati per il naso e felicemente scodinzolanti, da quella sciocchissima tirannia tutta ingualdrappata di patriottismo. Costoro arrivarono stralunati a Tripoli. Che ne era mai successo di tanto eroico patriottismo? Era finito sull'autoambulanze, si era tappezzato di croci rosse. La marcia trionfale c'era stata alla rovescia. Sembrava di essere a un film della decadenza romana, quando l'imperatore grasso, voluttuoso, pallido, comincia a vedere precisa la realtà e inizia la inutile fuga, mentre le colonne di cartone cascano, le tavole imbandite vengono rovesciate dalla fuga dei commensali, i trofei, ancora un momento prima pomposi, divengono oggetti solitari e ridicoli, e l'imperatore fugge, ma inutilmente, perché sono giunti i soldati che lo pugnalano. Ma costoro che venivano dalla Marmarica, trafelati, erano dignitosi rispetto a quelli dei quali erano i rappresentanti, cioè i fascisti e la mentalità fascista, che ancora era trionfante in Italia. Costoro erano da rispettare, o perlomeno da considerare umani. Quegli altri lassù, invece, oltre a essere responsabili, erano imboscati. Di costoro ridevo come di me. Avevano sulla testa una bandiera, rappresentavano il fascismo. In quel momento io ero lo spettatore. Domani, in un altro fugone, sarei stato l'attore. Cosa ancora posso credere dopo che ho rappresentato una tale commedia? Quando uno, serio, tronfio, sicuro, comanda, lo derido con la stessa naturalezza di come una gallina razzola. Nel mondo rimango silenzioso soltanto davanti all'amore, il quale così facilmente sfugge che si crede ancora vivo e invece si è distratto e un minuto fa era una fiamma compatta. Sirte 4-3-1941. Continuano i paragoni tra la nostra stoltizia e l'educato fanatismo dei tedeschi. I nostri generali si nascondono nei buchi come i topi quando vedono il gatto. Sirte 5-3-1941. Con i tedeschi si vive a contatto, non c'è scambio di parole. Noi siamo caldi di una madornale sconfitta. Loro hanno nella testa la guerra e solo quella. Ci guardano con benevolenza, o perché gli è stato dato quest'ordine, o per non capire in che pasticcio li stiamo mettendo. Si accorgono di noi solo quando fotografano la nostra miseria. Però oggi c'è stato questo episodio. I nostri soldati hanno un cibo monotono e scarso. Inoltre qui a Sirte si annoiano perché non c'è da fare assolutamente niente. La guerra la pensano e la fanno i tedeschi. La nostra divisione è assonnata e spettatrice. Allora i soldati si sono messi a fare una particolare caccia, non avendo armi. Sirte, che per molti giorni non era in mano di nessuno, è stata saccheggiata e dappertutto ci sono porte, mobili rotti, abbandonati. Allora i soldati prendono una di queste porte, una porta leggera, di quelle che chiudono le camere, e la sdraiano sulla terra. Poi la inclinano su un fianco in modo che faccia col suolo un angolo acuto. Allora le mettono sotto uno stecco in modo che la porta rimanga in quella posizione. Allo stecco c'è legata una cordicella che arriva fino a una buca vicino. Dentro la buca c'è il soldato italiano, attento, nascosto, con la cordicella in mano. La porta è là, in attesa, come un libro socchiuso. Gli uccellini cominciano a pigolare. Sono le ore del dopopranzo e tutti dormono, stanchi per il caldo. Gli uccellini si spingono sotto l'angolo più acuto, vicino al contatto che fa il terreno col fianco della porta, perché è lì che il soldato ha sparso il becchime. Quando alcuni uccellini sono sotto a mangiare, rassicurati dalla pace che c'è intorno, il soldato tira d'improvviso la cordicella, lo stecco vola, la porta, non più sorretta dallo stecco, s'abbatte al suolo, schiacciando gli uccellini. Né accade che gli uccellini abbiano tempo a scappare, perché si trovano proprio nel fondo dell'angolo ed è più rapida la superficie della porta a toccare il suolo che loro a volare fino ai margini della porta. Gli uccellini la sera sono mangiati. Siccome le tende dei tedeschi, specie lungo la spiaggia presso la quale si svolge la caccia, sono frammischiate alle italiane, è capitato oggi che un sergente tedesco, passando, ha visto il rapido schiacciarsi degli uccellini sotto la porta e il soldato che dalla buca all'improvviso ha tirato la cordicella. Si avvicina e dice al soldato che vada con lui. Il soldato, incerto, viene su dalla buca, non sa se ubbidire, ha timore. A malincuore segue il sergente che si è già avviato verso la spiaggia, congetturando cosa gli è per capitare. Il sergente arriva alla sua tenda e fa segno al soldato di entrare. Il sergente apre un armadio dove sono molti cibi, toglie un prosciutto e ne taglia una fetta più pesante di un chilo, apre un altro sportello e toglie un pane. Tutto dà al soldato che lo guarda e che rimane con il prosciutto e il pane nelle mani. Il sergente dice di prendere. Ma l'uccellino schiacciato, no, non deve uccidere gli uccellini. E fa di no con la testa, e fa il gesto della tavola che schiaccia gli uccellini e ripete no, no. Che il soldato invece venga quando ha fame da lui, che gli darà ciò che vorrà. Il soldato dice di sì e torna alla sua tenda dove mangia pane e prosciutto. 28/3/1941. Per la prima volta stanotte ho visto l'assassinio della guerra. Teste bucate dove c'entra il pugno di un bambino, mani strappate via, ammassi di carne che pochi minuti prima erano giovani. 23/5/1941. Siamo per partire per il fronte. Davanti a Tobruk muoiono molti soldati. Ieri sera uno ha portato la notizia che un reggimento di fanteria è quasi scomparso. Per le camere si ode un soldato che canta a mezza voce. Altri soldati a tratti lasciano apparire un leggero canto che si distrae. Ritorna il silenzio. Tenente Marcello, cominciando a leggere il fonogramma, mormorò: non vedrò più l'araba. Nel fonogramma ricevuto all'ospedale militare di Tripoli c'era scritto che il maggiore Carnelli, stante che la 31esima sezione di sanità si avviava al fronte, necessitava che i quadri si rifacessero completi, lo richiamava Soani Ben Aden nell'attuale sede. La sezione aveva già cambiato 3 comandanti. Questo Carnelli era il quarto. Il primo era stato l'ingenuo oculista, innamorato della moglie giovane, che all'improvviso fu trasferito in Cirenaica. Gli era successo il simpatico Oscar Pilli. Poi si era tapino presentato il tenente Finzak. Ecco ora lo sconosciuto e autoritario maggiore Carnelli, morirà davanti a Tobruk, a richiamare da Tripoli il tenente Marcello, che mentre tutti pensavano a fughe, rimpatrio, disfatte, inglesi, prigionia, aveva continuo e dolce il pensiero nell'immagine di un'araba. 10 giorni prima, infatti, il tenente Marcello, che a Tripoli era l'unico ufficiale che abitava nel quartiere arabo, i soldati dormono in caserma, Mentre di mattina camminava per una piccola strada uguale a una pittura del Medio Oriente ottocentesco e si divertiva a quel mondo, suonò l'allarme. Da quelle case arabe, dai muri chiusi, come bianchi scarafaggi sortirono fuggendo gli arabi che correvano al loro rifugio, che era da un lato del quartiere. Finalmente il tenente Marcello vide qualche cosa al di là delle porte eternamente chiuse. Trine in alto di leggere ringhiere, manti che correvano, pareti lisce illuminate dal cielo, la nudità degli interni arabi, eppure ricchissimi di immagini, di segreti e perfino di musiche. Già la strada era per farsi di nuovo deserta, che tutti erano fuggiti, in alto vi era il musicale ronzio degli aeroplani, quando una porta si aprì e un'araba, ridente, il volto nudo, di bellezza inarrivabile, fissò senza incertezza il tenente Marcello, che era lì davanti. Essa continuò ancora a tenere abbassata la veste e, indugiando sulla porta, il volto ancora nudo, continuò a guardare sorridendo il tenente Marcello. Marcello sapeva alcune parole arabe, ma che si riferivano a una visita medica. Era un meccanico frasario che gli aveva insegnato Mahmud, il patrizio dell'oasi di Sorman. Davanti alla giovane araba non gli vennero in mente né parole arabe né italiane. Essa sorrideva come un'europea ed era così bella e delicata che sembrava un'apparizione. Mentre si mosse, Marcello distinse i capelli neri e lucenti, il volto ovale, la bocca morbida e disegnata con esattezza. Il modo come teneva il lembo della veste ricordava il disegno di una leggera anfora. Mentre essa fece salire la stoffa che avrebbe chiuso il volto, finalmente salirono alla bocca di Marcello delle parole che avrebbe voluto in fretta pronunciare, ma non trovò nell'elenco arabo la traduzione, e in italiano gli sembrò assurdo parlare. Essa alzò la mano, racchiuse l'apice del lembo e fu chiusa. Si mosse, incedendo come una gaia regina. Marcello si mise dietro di lei. La strada era deserta, c'erano soltanto i muri e il sole e il ronzio nitido degli apparecchi alti nel cielo. L'araba doveva essere ricca perché era sì vestita di bianco come tutte le altre, ma bianco di seta e immacolato. Le braccia muovevano braccialetti e la sua spregiudicata spigliatezza faceva pensare che non fosse terrorizzata dal bastone arabo. «Forse viene dal Cairo o da Tunisi», si disse seguendola Marcello. «Perché non le ho parlato in francese?» Intanto il tenente badava di non avvicinarsi troppo. Aveva calcolato di seguirla ravvicinato fino al rifugio e poi negli ultimi metri raggiungerla ed entrare insieme come per caso. E così non perderla nel semibuio del rifugio, ma rimanere al suo fianco. E dove lei si fermava, anche lui si sarebbe fermato. È superfluo ricordare che tutte le arabe si tengono tappato il viso con la tunica e quando sono insieme non si distinguono una dall'altra che per pochissimo. Marcello si attenne al suo piano. Essa, quando all'entrata se lo sentì al lato, non ebbe alcun segno. Soltanto strinse nervosamente la bella mano che sorreggeva il sipario davanti al volto. Il rifugio era pieno di figure bianche erette. L'araba si appoggiò in un punto del muro. Dietro si mise il tenente Marcello col cuore che batteva. Gli occhi, per il contrasto della luce che c'era fuori, lentamente si stavano abituando. I secondi cominciavano a passare, Marcello dietro di lei non riusciva a dire niente, ma siccome gli parve che essa avesse un impercettibile movimento come di delusione, subito mormorò: «Sono medico, italiano, sono stato in un'oasi». Lo disse in francese. Lei aveva la nuca immobile come una statua. Marcello aggiunse «tabib», che in arabo vuol dire «medico», e subito trovò insulse le parole che aveva pronunciato. Stranamente ne ebbe vergogna, benché avessero una loro ragione. Infatti quelle sillabe volevano dire che non temesse, che userebbe ogni prudenza, che conosceva il mondo arabo. Ma un fatto nuovo scombussolò il piano di Marcello, che comunque era iniziato. Si alzò il fragore di una bomba scoppiata vicinissimo, e mentre il rifugio traballava la luce si spense. Marcello credette di approfittarne, ora le avrebbe parlato, ma nello stesso momento si accorse che aveva perso anche questa occasione. Infatti fu spinto, sorpassato, ci furono grida, la paura aveva invaso gli arabi. Come riuscì ad essere di nuovo fermo, accese in fretta un fiammifero. Non riconobbe intorno l'araba. E del resto subito qualcun altro, che voleva uscire da quel buio, lo urtò. Ma la bellezza, il mistero, il sorriso che l'araba gli aveva rivolto ridettero a Marcello energia. Anche lui corse all'uscita. «Deve ritornare a casa, l'aspetterò davanti alla porta». Fuori l'antiaerea faceva nel cielo dei nastri rossi e turchini che presto sparivano. la stradetta araba sembrava più orientale. Infine la sirena suonò il cessato allarme. Marcello vide in cima alla strada uscire gli arabi dal rifugio e sparpagliarsi nelle diverse direzioni. Vicino c'era il porto e ogni tanto Marcello sentiva quell'odore di catrame, di mare, di pesce marcio e silenzioso dondolio che sfandono i porti. Infine gli parve che avanzasse e pochissimo dopo era sicuro che era lei. Camminava in mezzo alla piccola strada. Marcello, anche lui, era in mezzo. Era come fatalmente dovesse avvenire l'incontro. Quando essa fu vicina, deviò un poco verso la casa. Dalla feritoia della sua veste si vedevano gli occhi diretti verso Marcello. Come fu vicinissima, rapida scese la mano che ratteneva la veste e di nuovo apparve il volto. Ridente, quasi implorante, i due occhi grandi come dicessero moltissime parole. Marcello, commosso, mormorò e stese leggermente le braccia verso di lei e non vedeva null'altro al di fuori di quel volto. «Come posso parlare?» Essa deviò ancora più verso la porta di casa, mentre di nuovo con il panno bianco si chiuse. Marcello era rimasto lì a non aggiungere nulla. In quel momento un arabo, alto, membruto, il volto pieno di fitti peli, gli occhi iniettati, sorse tra loro. Rapidamente contrasse due o tre volte i tratti del viso e gridò parole contro la donna, tra le quali ogni tanto, come una mitraglia, si udiva «barra, barra fissa», che in arabo vuole dire «via, via di qui», ed è frase dispregiativa e da padrone a servo. La giovane araba oltrepassò la porta e scomparve. Sembrò a Marcello che sotto quella gragnuola non piegasse la testa, quasi la bellezza la rendesse invulnerabile. Intanto l'arabo continuava a gridare con il volto inferocito, diretto in parte verso la porta dove era scomparsa la donna e in parte verso Marcello, che era ancora lì imbambolato a vedere e udire. Poi quel blaterio si appannò rapidamente ed un tratto si spense. L'uomo rimase incerto un istante ancora, poi anche lui entrò in casa. La porta fu da lui chiusa con delicatezza. Immediatamente di là non si sentì più nulla. I muri della casa erano senza aperture. L'araba non aveva finestre a cui affacciarsi. Marcello, in una specie di sonno, si allontanò. Era il tempo che a Tripoli v'era triste confusione per i profughi della Cirenaica, derivazione del disastro dell'esercito italiano. Ciascuno pensava a se stesso e immaginava un futuro di pericoli. Ma Marcello, da quel giorno, pur seguendo le vicende e i discorsi e rispondendo e commentando, ebbe segretamente davanti a sé, cioè nel cuore, l'immagine di quella donna. Da quel giorno, quando suonava l'allarme, dall'ospedale correva su una bicicletta che si era procurato fino alla stradetta e aspettava che lei uscisse o ritornasse dal rifugio. Qualche collega dell'ospedale, vedendolo con tanta fretta partire, sospettò che, impauritosi sotto la cattiveria degli avvenimenti, andasse a nascondersi in qualche sicuro rifugio che preferiva tenere segreto. Ma Marcello non arrivava a nulla. Intanto l'ospedale era distante dal quartiere arabo ed era già accaduto diverse volte che quando Marcello arrivava il fine allarme era già suonato. Una volta che arrivò in tempo la casa rimase silenziosa e chiusa. Intanto l'immaginazione, il ricordo del volto della donna, quei suoi occhi vivissimi, il suo procedere gaio, facevano più acuto il desiderio. Era il fatto che Marcello, abitando a Tripoli, nel quartiere arabo, si era sempre più inavvedutamente mescolato alla loro vita e ai loro canti monodici che durante la notte chiamavano senza speranza eppure accorati. E per di più da molti mesi Marcello non parlava con nessuna ragazza e gli avvenimenti militari inducevano a un triste futuro e la nostalgia dell'Italia, che chissà se avrebbe rivista, era come il continuo stridio delle carrucole dei pozzi nelle oasi silenziose. E si sentiva per di più solo e abbandonato, pur tra gli stessi italiani, a causa della bandiera della dittatura, che aveva gettato l'ombra in tutti gli animi. Allora quell'apparizione, quell'invito così aperto, quella bellezza figlia proprio del mondo orientale che aveva scoperto, aveva bruciato di nuovo colore la sua vita. Perseverò dunque per rivederla e parlarle. Chiesi un giorno di permesso e consumò tutte le ore a girare intorno alla casa, ma quel giorno non suonò nessun allarme. Al castello di Tripoli, dove il critico d'arte Giuseppe Marchiori lavorava alla radio, Marcello aveva conosciuto un arabo istruito e spregiudicato con due occhi febbrili. Con la scusa di aspettare l'amico Marchiori, Marcello trattenne l'arabo in maliziose conversazioni e infine gli dette da tradurre un biglietto, cosa che l'arabo fece, ma quando seppe a che sarebbe servito si sbalordì, si rifiutò. Marcello lo lusingò, lo pagò, lo minacciò. L'arabo disse che le arabe non sanno né leggere né scrivere, che non era possibile le arrivasse un biglietto, e se anche lo avesse avuto tra le mani non lo avrebbe capito. Essa, insomma, non si poteva muovere, né poteva pensare di muoversi. E l'arabo istruito, ostinatamente, con il volto negava. Allora Marcello, rimasto solo, l'araba gli si fece più viva. Tentò un'altra prova. Nel porto di Tripoli, come si fosse nella familiare darsena del paese, in servizio per il vettovagliamento militare, c'erano allineati diversi bastimenti di Viareggio. Marcello era spesso affettuoso ospite di quegli equipaggi paesani. Tra loro reciprocamente si confidavano, e più volte i marinai gli avevano confessato l'intenzione di fuggire con i loro bastimenti prima che arrivassero gli inglesi, e anzi ripetutamente l'avevano invitato a tentare con loro la fuga e a prepararsi un vestito borghese in modo da essere scambiato con un qualsiasi marinaio. Marcello in quei giorni se lo fece cucire, e gli servì per tentare la via dell'araba. Infatti per quella stradetta un ufficiale era facilmente notato, ma un borghese molto meno. E dunque, così vestito, bussò alla porta dell'araba. Dall'interno non rispose nessuno. Allora di là rispose un grugnito ben chiaro e, come detto, da un volto che aveva gli occhi su di lui e sapeva tutto, ciò che aveva tentato e ciò che aveva pensato, e da più giorni aspettava Marcello. La porta intanto era rimasta chiusa. Di nuovo dentro era silenzio. Marcello, vinta un'altra incertezza, di nuovo bussò. Dette due colpi non forti con le nocche della mano sul legno della porta. Di là allora rispose una voce baritonale, densa, limpida, vibrante. «Barra!» disse, cioè «Vai via!» Marcello immaginò che chi così parlava era seduto nell'atrio della casa, che l'atrio era vuoto, e l'arabo aveva gli occhi diretti su di lui, ed era come lo vedesse benché ci fosse tra loro la porta chiusa. Marcello non osò più niente, guardò in alto, al muro della casa. Ma come ben sapeva, era chiuso quale una fortezza. Si avviò dopo qualche secondo verso il porto. Gli parve allora che una muraglia di fiamme, senza pietà, infinita da un lato e dall'altro, invalicabile per un solo uomo, vivesse tra lui e l'araba, muraglia che c'era anche prima e che lui giovanilmente non aveva visto, abbagliato dalla grazia e dalla bellezza. Ma intanto da Soani Ben Aden, il maggiore Carnelli, provvedendo a tutto, vergava il messaggio di richiamo, e Marcello dovette anche lui, insieme alla paziente sezione, avviarsi al fronte, dietro i fanti della divisione Pavia, che in mezzo al disastro militare erano stati comandati contro il ricco nemico. Claudio Bigagli ha letto Il deserto della Libia, di Mario Tobino. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Regia di Francesca Zammarelli. Ad alta voce @rai.it